Calcio. C. Ascolta il testo. In Italia il primo campionato di calcio ha luogo nel 1898. Si svolge in una sola giornata con solo 4 squadre e vince il Genoa. Ma la vera storia del calcio comincia nel 1924, con la partecipazione di 18 squadre. La storia della squadra nazionale inizia il 15 maggio 1910 all'Arena di Milano, con una partita amichevole Italia-Francia, che finisce 6-2. Silvio Piola, mitico goleador della squadra azzurra, due volte campione del mondo negli anni 30, è comunemente chiamato Silvio Gol, per il suo grande talento. Raggiunge l'incredibile record di 30 gol in 34 partite con la maglia della nazionale. Un altro campione è Giuseppe Meazza, che occupa un posto di primo piano nella storia della nazionale italiana grazie alla sua classe sopraffina. L'Italia disputa per ben 6 volte la finale della Coppa del Mondo e riesce a conquistare il titolo 4 volte. Nel 1934 batte la Cecoslovacchia 2-1. Nel 1938 l'Ungheria 4-2. Nel 1982 la Germania 3-1. E nel 2006 la Francia 5-3 ai calci di rigore. La prima squadra italiana che passa alla storia in campo internazionale è la squadra milanese dell'Inter, guidata dall'allenatore Elenio Herrera. Gli anni 60 sono per i nerazzurri gli anni d'oro, perché vincono per 2 volte sia la Coppa Europea dei Campioni sia la Coppa Intercontinentale.